parole in macchina, metti in moto. Lascia indietro giocattoli e vecchie foto. Perse strade, mi son fatto vasche a nuoto. E anche se le ho fatte a vuoto, fra ma hanno cambiato il volto. Cresco ma, cresco ma, cresco ma, cresco ma, cresco ma, cresco ma, sono sempre lo stesso. Cresco fra, cresco fra, cresco fra, cresco fra, cresco fra, cresco fra, cresco fra. E ora penso a me stesso. Le canne in piazza, la gente che smazza, amnesia o magazza, facciamo una parza. Ho 24 ore a prender da bere, un paio di bottiglie così riempiamo a tutti i bicchieri. Poi torniamo, ci mettiamo a sedere, parliamo di vecchie storie, gioie e memorie, ricordiamo vecchie glorie. Ma tutto ciò non fa per me. Se ti piace, tienila per te. Questa vita ha un paio di cose da sistemare. Mi dispiace, oggi non esco, c'ho da fare. Fra, sali in macchina, metti in moto. Lascia indietro giocattoli e vecchie foto. Perse strade, mi son fatto vasche a nuoto. E anche se le ho fatte a vuoto, fra, ma hanno cambiato il volto. Cresco ma, cresco ma, cresco ma, cresco ma, cresco ma, cresco ma, sono sempre lo stesso. Cresco fra, cresco fra, cresco fra, cresco fra, cresco fra, cresco fra, e ora penso a me stesso. Ricordo il cioccolato e il panetto a bassa. Nelle sere d'inverno scaldava la piazza. E via scaldano un'altra in giro fino all'alba. Spray in mano, scrivevo il nome sulla serranda. E ora guarda come siamo passati dal disegnare i muri gratis al disegnare sugli altri pagati. Precipitati in questi inferni di centri abitati. Siamo cresciuti con altri ideali. Disposti o ti scontri, indisposti agli affronti. A volte troppo ingordi e troppo tardi, te ne accorgi. Ci pensa da anni mentre conta il tempo su orologi che girano più lenti rispetto a quando stai fuori. Fra, sali in macchina, metti in moto. Lascia indietro giocattoli e vecchie foto. Perse strade, mi son fatto vasche a nuoto. E anche se le ho fatte a vuoto, fra, ma hanno cambiato il volto. Cresco ma, cresco ma, cresco ma, cresco ma, cresco ma, cresco ma, sono sempre lo stesso. Cresco fra, cresco fra, cresco fra, cresco fra, cresco fra, cresco fra, cresco fra, e ora penso a me stesso. Cresco ma, cresco ma, cresco ma, cresco ma, cresco ma, cresco ma, sono sempre lo stesso. Cresco fra, cresco fra, cresco fra, cresco fra, cresco fra, cresco fra, cresco fra, e ora penso a me stesso.